Radio 24 Reportage. Palermo, dallo Zen a Brancaccio, di Raffaella Calandra. Io vengo da Palermo, il contesto eppure non è, è quello che è. Alla fine uno con una certa età delle cose li fa incoscientemente, non riflettendoci. Poi ti trovi ad un punto però che devi scegliere la tua vita, qual è, quale non è, che strada prendere, no? Da picciotti di mafia a costruttori di navi, c'è chi da operaio di malavita è diventato esempio di recupero e chi da piccolo delinquente si è trasformato in testimone di speranza. La storia di Tony, ma questo è solo un nome di fantasia, è quasi la storia di un miracolo compiuto in uno dei quartieri palermitani più difficili, diventato come tanti un piccolo criminale, tanto da non ricordare più nemmeno il primo reato commesso, finito da minorenne in carcere invece che a scuola. Al suo passato Tony è riuscito però alla fine a voltare le spalle e ora può ricominciare una nuova vita, anche se a chilometri di distanza dalla Sicilia. Tony, come altri 16 suoi coetanei, è stato infatti accolto dalla Fincantieri, che li porta a lavorare con sé. Ho iniziato con i furti e ho finito con le rapine. La mia carriera criminale è stata un po' varia. Per quale ragione? Per i soldi, avere quello che non potevo avere. Per quanto tempo è andato avanti? 5 anni. E a che età ha cominciato? 13 anni. Qual è stato il reato più grave che ha commesso? La rapina, in un'agenzia. E da lì lei poi è finito in carcere, ancora minorenne? Sì, sì. Cos'è che lei desiderava avere e che in quel momento la spingeva anche a commettere questi furti? Tutto quello che non avevo, dal paio di scarpe firmate al telefonino bello, o andare a cena fuori a spendere soldi. Lei è stato poi aiutato a inserirsi in un percorso, diciamo, di formazione per avere... Allora, in verità io sono stato aiutato sia dal primo reato all'ultimo che ho commesso, solo che quando avevo 14 anni, 15 anni non le capivo determinate cose, come l'ho già detto. Adesso quanto è importante per lei lavorare? Per me lavorare tanto, la vita può cambiare. Le strade che appunto sembrano più brevi non lo sono. E quindi non ne vale la pena. E poi costruire navi è una cosa bella. Sì, faccio il saldatore adesso. Cos'è che l'ha convinta e l'ha aiutata maggiormente nell'intraprendere questa nuova strada? La stanchezza di fare quella, io. Ciao. Com'è andata la partita? È andata bene. Mohamed ha fatto una parata pazzesca. E bravo cioccolatino. Senti, hai visto il mega telefonino di Sara? Gliel'ha regalato Giuseppe. Me lo compri pure tu? Io non lavoro, vado ancora a scuola. Come me li procuri i soldi? Anche gli altri vanno ancora a scuola, eppure sanno come procurarseli. Perché non ti metti a lavorare anche tu con Enzo? Come fa Giuseppe? Sì, lavorare. Sapessi che lavoro è quello. Chi se ne frega che lavoro è? Sempre soldi sono. Io per un telefonino e 4 soldi. Non la rischio la mia libertà. Chi dice no, dunque, anche alla mafia. Lo dimostra la storia di Tony e cercano di comunicarlo anche queste voci di giovani attori che attori in realtà non sono, perché recitano se stessi. Sono ragazzi dell'Istituto di Giustizia Minorile di Palermo Malaspina, guidato da Michele Di Martino. Quest'ultima nostra progettazione che abbiamo fatto grazie a Vodafone e altre entità, il Nodo, la Confindustria, ha coinvolto anche dei soggetti, quest'ultimo che ho detto, Confindustria, che nella loro etica delle imprese, nel sistema europeo che tende a questa direttiva, tra l'altro molto ormai concretizzata, anche con un libro bianco cosiddetto sul sistema, ci ha permesso di poter percepire con certezza, da parte anche dei nostri giovani che sono all'interno delle carceri in particolare, sono stati gli attori, non solo sotto la forma fisica ma anche del pensare, ci hanno permesso di verificare l'eccezionalità e il confessarsi anche pubblicamente del loro cammino, sia il negativo sia la tendenza nel positivo. Ti aspettavo, sai? E allora ti sei deciso pure tu a venire a lavorare con me, eh? Non mi interessa questo tipo di lavoro. E allora che vuoi? Mio fratello, lo devi lasciare in pace. E chi sei tu? Ma non lo vedi tuo fratello come è felice? Amici, soldi. E tu? E anche una lira in tasca. Ma libero. La libertà è il rispetto, i soldi e fare quello che vuoi tu quando dici tu. Michele, la libertà si compra. Nei padiglioni dello Zen o nei cortili più affollati di Brancaccio, per molti ragazzi essere uomini vuol dire prendersi il rispetto della gente. Li vedi subito, dominatori delle strade, con i motori che rombano tra i passanti, la voce grossa e l'arroganza dello sguardo. Hanno meno di 18 anni ma sanno già come si comporta un boss. Li vedevo qua in giro, non so, le panchine rotte. Si rompono sole. Si rompono sole perché le fanno male, non è che c'è qualcuno che... No. E voi ragazzi, com'è la vostra vita qua, in questo quartiere? C'è chi va a lavorare, c'è chi gioca. E c'è che fa... Cinquero. E circola anche la droga. Chi ti sa la... No. Ognuno si fa i fatti suoi. È la meglio cosa. Non abbiamo 100 anni. C'è qualcuno che comanda in questo quartiere? Sì. Certo. Sì. E che vuol dire che c'è qualcuno che comanda? Che andiamo sotto giacche a cavazzo. C'è qualcuno che non lavora. Da chi si capisce? I movimenti che fa. Dai movimenti che fa. Perché quali sono i movimenti che fa? Non lo posso. Ci vanno la maglia. Vogliono lavorare. Ti vanno la tua. Quanto offrono più o meno? Quanto una Dipende. 100, 500. Se alla famiglia o no, dipende. Ad una persona giovane, ad esempio, 500 quindi alla settimana. 500 euro alla settimana perché per stare in mezzo a una piazza. È un rischio. Sanno a chi devo andare a chiedere. Sì. Se no rischiano la testa. A chiedere prima permesso. Per venire questa cosa. Devi avere il permesso. Ci vai, parli con quello, devi parlare. Eroina. Quella persona ti darà la risposta. Per esempio, quello che spaccia va. Tipo se ne va in galera, e l'altro che gli dà per comando di spacciare campa la famiglia. Cioè gli danno ogni mese, danno dei soldi. La famiglia, dato che il marito. Il capo famiglia non c'è. E voi sapete più o meno anche quanto gli danno ogni mese? 500, 1000. 2000, dipende da che è la tua scuola. Se per esempio i bambini hanno, tipo bambini piccoli, hanno bisogno di pannolini, di mangiare. Certo, è normale, devono campare, dato che non c'è nessuno. Ammazzane, Isbi! Cercano di fare scappare al lato, tipo fanno, creano qualcosa in modo che quelli tipo si girano e quello nel frattempo cerca di andarsene. Se sbaglia qualche persona muore. Comando io, lui si litiga con me e io ammazzo a lui. Le fidanzate che non si possono toccare, per dire. Vabbè, questa è la prima cosa. Cioè, fammi capire. Ma la TX! Il fidanzato ci va, che ci devi dire? La prima volta avvisa, la seconda pure, ma adesso non ce la fa arrivare più. C'è anche un capo tra i ragazzi? Certo. Il figlio, quello che comanda la zona. Il figlio del boss, diciamo, della zona, è anche quello che è un po' il punto... Cioè, si fa rispettare della gente. Che vuol dire, appunto, che uno si fa rispettare? Perché i soldi sono così, si possono fare. Quello ci dice... accompagna a mangiare e quello ce lo va a comprare. Lo che gli chiede va a fare. Se per esempio tu hai una paura di una persona ti chiede di fare una cosa, se hai paura non glielo puoi dire di no. E per esempio queste persone anche vanno nei negozi, prendono le cose e non pagano. Certo. C'è un botto di 1000 euro e loro non lo pagano. Perché sono... Mafioso. Certo lo pagano, il pizzo, certo di no. E perché? Qual è la differenza? Perché quello lavora di più e quello di no. Che guadagnano di più e vogliono la metà. La metà? Sì. C'è per esempio uno che gli chiede pizzo, quello non glielo paga, dopo una settimana gli fanno prendere fuoco il negozio, o la casa, la macchina, il motore. Voi avete mai visto qualcuno in giro con le pistole, con le armi? Sì, con coltelli sì. Ci sono ragazzi che li tengono per difesa, altri per altre cose. Chi ce l'aveva? Salvo. Io. Tu c'hai la pistola a salve, e perché? Perché mi divento. Mi divento a sparare. Tum, tum. Almeno appena sono più grande prendo la pistola. E sono dei piccoli boss quelli che spesso si trovano di fronte gli operatori dell'Istituto di Giustizia Minorile di Palermo. E alla violenza loro rispondono offrendo loro una seconda chance di vita, come è stato per Tony. Ma qui in via Principe di Palagonia, in questi uffici, ora temono che la crisi possa far aumentare il numero dei più giovani che cadano nell'area penale. Ma con la determinazione dei siciliani, loro la combattono questa possibilità, come fa Rosalba Barba Romano, funzionario del Malaspina. Bisogna offrire ai ragazzi delle opportunità concrete, quindi l'incontro con delle persone adulte di riferimento, grazie alla collaborazione fortissima col terzo settore specializzato nelle problematiche della devianza minorile, e l'incontro poi con delle risorse concrete, delle opportunità concrete lavorative e formative. I ragazzi ci seguono, davanti a delle opportunità concrete e selettive si impegnano, l'impegno viene premiato in delle occasioni concrete lavorative. Come siete riusciti a sottrarre dei ragazzi a delle famiglie malavitose? Allora, su questo la nostra cultura in Sicilia, diciamo, ha un lungo lavoro alle spalle. Il nostro ufficio di servizio sociale a Gela è stato aperto nel 90 con un decreto speciale, proprio per arrivare ai territori in modo più diretto, ed è da allora che abbiamo iniziato questo lungo lavoro con le famiglie, con i minori che vengono reclutati dalle famiglie malavitose e vengono addestrati, perché di un vero e proprio addestramento si tratta, con vari step. Abbiamo iniziato a lavorare con loro studiando il fenomeno, cercando di sottrarli e di offrire delle opportunità, e che possiamo dire che adesso, dopo più di 10 anni di lavoro, diversi ragazzi sono pentiti e sono entrati nei programmi di protezione speciale, e diversi ragazzi minorenni hanno rifiutato di continuare questo percorso e sono stati seguiti dai nostri servizi minorili, e su questo c'è una grossa fatica e un grosso impegno per offrire delle opportunità concrete e anche delle opportunità di appoggio a ragazzi che fanno delle scelte molto difficili e coraggiose. Nella seconda parte vi porteremo, tra l'altro, all'interno dei padiglioni dello Zen.